Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Oggi voglio cominciare la trasmissione raccontandovi della mia eterna difficoltà nello spiegare quale sia la musica trasmessa in eclettica. È ovvio che se ho la possibilità di farla ascoltare è tutto un altro discorso, ma se devo descriverla a parole io mi trovo in difficoltà. Non riesco a dare dei termini sintetici che possano far capire a chi semplicemente se la vuole far raccontare che cosa sia eclettica dal punto di vista musicale. A volte mi vengono in soccorso le parole vostre, siete voi più bravi a razionalizzare rispetto a me quanto ascoltate sulle frequenze di Rock FM. Per esempio, proprio in questi giorni mi è arrivata una prima mail da Teresio che non conosceva assolutamente Rock FM, non conosceva eclettica. Mi ha scritto di aver ascoltato per caso la trasmissione trovandosi per lavoro in una zona coperta da Rock FM. Dopo una mia prima risposta ha ribattuto con delle parole molto sintetiche che partono soprattutto da una sua considerazione personale, che è: comunque, se devo dirti la verità, il rock tradizionale mi ha stancato. Molto meglio il tuo programma per come è strutturato e per i contenuti. La selezione musicale è veramente notevole, a volte commovente. Belle parole. S'arrisbigliò malamente. I Linzola, nel sudatizio del sonno agitato per via del chilo e mezzo di sarde a beccafico che la sera avanti si era sbaffato, gli si erano strettamente arravugliate torno il corpo. Gli parse d'essere diventato una mummia. Si susì, andò in cucina, riaprì il frigorifero, si scolò mezza bottiglia d'acqua aggilata. Mentre beveva, tagliò fora dalla finestra spalancata. La luce dell'alba prometteva giornata buona. Il mare una tavola, il cielo chiaro senza nuvole. Montalbano, soggetto com'era al tempo che faceva, si sentì rassicurato circa l'umore che avrebbe avuto nelle ore a venire. Questo era l'incipit dei Il ladro di merendine di Andrea Camilleri. Like night in a should take a walk sometimes. Sometimes we would walk. My father's no different than any other powerful man. Any man who's responsible for other people. Like a senator or a president. You know how naive you sound. Why? Senators and presidents don't have men killed. Oh. Who's being naive, Kay? Thank you. I brani dei The Shins e dei fratelli Reed, ovvero sia i due ex Jesus & Mary Chain più sorellina, già li conoscete perché nelle scorse settimane sono passate all'interno di Eclettica, però sicuramente non il primo che avete sentito quest'oggi, il primo che arriva dal duo tedesco Tar Water, il duo che comprende Bernd Jestram e soprattutto Ronald Lipok, che erano partiti nella Germania dell'Est come punk e poi hanno avuto una carriera diversa. Perché sottolineiamo soprattutto Ronald Lipok? Perché è anche componente, oltre che dei Tar Water, dei Toro Coco Rot. Ora i Tar Water sono usciti con un nuovo album in cui ci sono parecchie tracce interessanti. Io ne ho scelta una quest'oggi per aprire l'intero volume di Eclettica. Vi ricordo che sempre tutto il dettaglio di quanto sentite in trasmissione, non solo in termini di musica ma anche in termini di libri e di film, lo trovate nelle playlist di Eclettica, che possono essere o lette direttamente su myspace.com/eclettica, oppure potreste riceverle nella vostra casella di posta se appartenete alla lista nera di Eclettica. Per farlo è semplicissimo, non bisogna essere presentati da nessuno, basta che vi presentiate voi stessi a Giulio e radiorockfm.com.

Thank you.